un tal gioco, credetemi, è meglio non giocarlo con me, miei cari, e a Tonio è un poco a tutti amaro. Il teatro se lassù pagliaccio sorprende la sua sposa col bel galante in camera con comico sermone, poi si calma od arrendesi ai colpi di bastone ed il pubblico applaude ridendo allegramente. A se ne dà sul serio sorprendessi altrimenti